Traffichiamo lo stup, tip, tepi lontan bitch. Bele, bele, collar, già facile. Io con la frog come ninja. Ste coup, dettai. Ramen ancora lo stup. Ste coup, ando la frap. Ste coup, la frog come ninja. Ste coup, te coup. Traffichiamo lo stup, tip, tepi lontan bitch. Bele, bele, collar, già facile. Ste coup, la frog come ninja. La découpe. Ste coup, te coup, dettai. Ramen ancora lo stup. Ste coup, ando la frap. Al pataro, la sacco, spina di chista. Lo buco una volta, due volte, non rissa. Babbo di minchia, vuoi stup stup, ti chiamo mio amico. Però fai la fila, se non sai bene come va a finire. E stop stop, con lo stup stup, ho fatto bene che fit fit. O se sei dietro ai tic tic qua quando bevo. E stop stop, con lo stup stup, ho fatto bene che fit fit. O se sei dietro ai tic tic qua quando bevo. Son serio, col PNF ho fatto bene. Con la tua peta ci passo le sere. Il tuo ferro finto mi fa una sega. Bele, corsa campestre nel tuo quartiere. 7 su 7 pensando al bene. 7 su 7 non faccio ferie. Ste con la frog come ninja. Traffichiamo lo stup, tip, tempi lontan bitch. Bele, collar, già facile. Ste con la frog come ninja. Ste coup, te coup, te dai. Ramen ancora lo stup. Ste coup, ando la frap. Bracklash, conosci la procedura.